Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. A tutti i nostri cari ascoltatori, un saluto affettuoso da parte di Gesi e di Antonio. Eccoci qua, Antonio. Ancora una volta. Ecco qua, siamo ai primi di marzo. Adesso dovrebbe venire la primavera. Ma lo speriamo ardentemente. Ma non ha fatto inverno, vabbè. Vediamo un po' come si comporta. Ok, d'accordo. Allora, nel frattempo diamo un cordiale saluto alle amiche e gli amici di Blu Radio Veneto in questa nuova avventura sulle ali dei ricordi. Il nostro indirizzo internet è bluradioveneto.it e ricordiamo anche la possibilità di ascolto in streaming e relativo download della trasmissione, senza naturalmente dimenticare un cordiale saluto al nostro regista e al nostro coordinatore. Esatto. Bene, bene. Allora, stasera abbiamo un ospite virtuale. Esattamente. Ecco, che l'abbiamo sentita qualche altra volta. E di cosa ci parlerà lo dirà lei, ed è la giornalista Elena Pilato. Adesso ci ascoltiamo la prima canzone. Oh, abbiamo deciso, Antonio ed io, di far ascoltare ancora per una puntata, vero Antonio? Un po' di qualche canzone di Sanremo del passato. Oblige, naturalmente. Ecco, appunto. E cominciamo con la canzone Serena, cantata da Gilda Giuliani. Pigione della stanza da pagare, la foschia dell'autunno sopra il mare, il saluto del mattino era il grido di un gabbiano, troppo in alto, troppo solo, chi lo sa. Pane e sogni tutti dentro un caffè latte, i pudori e le paure ormai disfatte, i tuoi inni all'amore di dolore, ma io stavo tanto bene insieme a te. Serena, io ero serena, serena come un cielo blu, un fiore dentro ad un bicchiere, bastava. Poi c'eri tu, serena, io ero serena, poeti io e te, il resto non contava niente, non ci importava più. Una stanza tende di velluto, il tuo sogno di riuscire si è compiuto, il saluto del mattino e il telefono vicino, la tua voce che mi dice come stai, come stai, che vuoi che dica che va bene, dir che ho tutto e non ho niente non conviene, e quest'ansia di aspettare mi fa male, fa pensare a quando stavo tanto bene insieme a te. Serena, io ero serena, serena come un cielo blu, un fiore dentro ad un bicchiere, bastava e poi c'eri tu. Serena, io ero serena, poeti io e te, il resto non contava niente, non ci Ed eccoci di nuovo in studio e abbiamo al telefono la giornalista Elena Pilato. Elena? Buonasera. Ci Elena. Sono. Ciao. Serata. Ciao, buonasera. Ben ritrovati. È bentornata. Grazie Gesuina, grazie Antonio, ed è sempre una gioia essere accolti in maniera così squisita nel vostro buon salotto serale domenicale. Bene, bene. Veramente, rivolgo anche un abbraccio, un saluto ideale ai nostri ascoltatori che so essere molto sensibili, attenti e presenti, ci seguono con passione. Certo, certo. Elena, di che cosa ci parlerai questa sera? Oggi e questa sera, carissima Gesuina e carissimo Antonio, sul filo, per così dire, non dei ricordi ma dei chilometri, vi accompagno in una ridente amena località dell'Alta Marca Trevigiana che si chiama Vidor. Forse il nome evoca qualcuno, qualche visita domenicale, qualche gita fuori porta. Vidor rimane nella parte, nella zona, per così dire, di estremo nord della provincia trevigiana, nord-occidentale, per essere precisi, e affinché i nostri ascoltatori possano localizzarla bene, e rimane in questa zona nord-occidentale e della parte in cui la provincia trevigiana cede il testimone a quella che poi è la provincia bellunese. Vidor sorge sul tratto sinistro del fiume Piave e vedremo che questa localizzazione è importantissima, perché Vidor è proprio un centro di snodo, di collegamento, di congiunzione tra la parte sinistra, dove sorge appunto la cittadina, e la parte destra, i colli del Montello, via via anche la zona industriale di Montebelluna o i meravigliosi colli Asolani, per cui la prima, secondo me, il primo elemento identitario di Vidor è proprio questo ruolo di ponte. Infatti poi incontreremo un ponte famosissimo, importantissimo, di raccordo, di unione tra la sinistra e la destra Piave. Vidor, che comprende le frazioni di Bosco, di Colbertaldo, e ritornano un po' anche i nomi di origine medievale. E a proposito di questo, voi sapete, Gesuina ed Antonio, che a me piace sondare un po', sì, in quanto anche giornalista, l'origine, sì, dei nomi. Sì. E il nome Vidor è un toponimo e deriverebbe, secondo alcuni, da due termini latini, vitis oriu, e avete già capito che riportano quella che è la coltivazione regina delle colline di Vidor, la vite, per l'appunto, di Prosecco, oppure si inseriscono poi anche altre sempre origini toponomastiche, però più affidate a una fantasia popolare, per cui abbiamo una derivazione da un certo Victorius, luogotenente del re Franco Alboino, che era stato posto a Vidor proprio come controllore, per così dire, delle fare, che erano delle fortificazioni medievali. Secondo altre teorie, sempre anche un po' fantasiose, il nome deriverebbe dal ruolo occupato da Vidor nella sinistra Piave, o per meglio dire nel quartier del Piave, un ruolo di guidor, cioè di guida, di orientamento, anche proprio per gli scambi commerciali. Poi c'è anche un'origine, se vogliamo, religiosa, perché ci rimanda a San Vittore, Santo Vittore e Corona, che sono i due santi, che sono le cui spoglie sono state tumulate nel santuario omonimo, che però è più spostato verso la zona settentrina. Poi, diciamo, c'è anche da citare un'origine, però questo per quanto riguarda il nome della frazione Colbertaldo, onomastica, cioè legata proprio a un nome, e di origine tedesca, perché quel Kulbertaldo. Sì, che molto ha questo suono musicale, però che appartiene non a una cultura veneta, per meglio dire a una cultura di derivazione germanica. Perché sì, quel Berta starebbe per potente, famoso, e il Valdas è capo, perché Kulbertaldo aveva una funzione insieme a Vidor sempre di controllo di questo punto nevralgico di passaggio, anche e soprattutto durante il periodo delle invasioni, per cui il periodo e delle varie dispute e delle difese dei territori. Questo per regalarvi un po' un'istantanea da un punto di vista terminologico, certo. Ma per tornare sulla cittadina ameba, accogliente, ridente, che occupa appunto questa zona nord del quartier del Piave, ciò che la caratterizza, Gesuina e Antonio carissimi, è la ricchezza da un punto di vista ambientale e paesaggistico. Io vorrò oltrepassare, varcare questa zona, perché mi si palesa, mi si manifesta dinanzi una varietà di piante, di bellezze che veramente ben rendono onore e giustizia a questo lembo di paradiso della fine del quartier del Piave. E come varietà abbiamo? Beh, innanzitutto c'è questa dorsale collinare che colpisce e che si apre dall'abbazia di Santa Bona, che è un luogo mistico e capitale, di capitale importanza per Vidor, verso alle prime prealpi venete, in cui spicca il monte Cesen con i suoi 1500, qui mi sono documentata, 1570 metri d'altezza, monte Cesen che vi invito a raggiungere nelle prime sere o pomeriggi di maggio, perché è contrappuntato di narcisi meravigliosi. Sì, siete invasi da questi colori bianco-giallo, che veramente è pittorico, per cui c'è questa dorsale collinare che si apre, come ho detto, dall'abbazia, o per meglio dire abbraccia dall'abbazia, che è su una sommità ed è visitabile, luogo di cultura, oggi dimora privata, e il monte Cesè in questa catena montuosa. Ma tornando verso, diciamo, approfondendo la dorsale collinare, qui possiamo dire che le colline a nord cedono il passo alle radure boschive, sono boschi originari, ma anche piante resinose, alberi piantati soprattutto dopo la Grande Guerra, che ahimè qui provocò devastazioni a destra e a manca, perché siamo sul fronte, su una delle linee primarie macchiate, ahimè, dal sangue dei caduti, purtroppo. Per cui Vidor è legata anche a ricordi molto molto tristi, che purtroppo, devo dire, vanno a macchiare o a lasciare un po' le radici storiche, che è giusto però ricordare, di questa terra. E per ritornare al paesaggio, come vi dicevo, la parte nord, dove chiaramente il sole non è baciata da e cede il passo al bosco, la parte sud è pienamente un omaggio alla vite, perché soprattutto di cartizie, ed abbiamo i terrazzamenti tipici che poi verso Val Dobbiadene trovano proprio il loro coronamento, la loro estensione maggiore. Ma non finisce qui, perché vi avevo promesso varietà di paesaggio. Allora noi scendiamo ancora a sud, laddove c'è proprio il confine con il quartier del Piave, con l'abitato di Moriago della Battaglia, che un tempo apparteneva alla municipalità di Vidor, e incontriamo scopriamo una piana alluvionale, di origine alluvionale, che presenta, secondo me, due realtà che vale la pena, singolari, ma vale la pena di citare, perché sono curiose da un punto di vista, possono affascinare anche per quanto riguarda eventuali gite. C'è una realtà che ci caratterizza da sempre, caratterizza la Campania veneta, fatta di campi per l'appunto aperti, su suolo leggero, di coltivazioni tipiche, per cui il mais, il gran turco. Poi però c'è anche una realtà strutturalmente diversa, fatta di campi chiusi, drenanti, in cui l'uomo, i cosiddetti palù, ed ecco il nomen omen, cioè che porta in sé il nome, che porta in sé un presagio, queste zone paludose addomesticate, diciamo, dall'uomo, perché non era necessaria una vera e propria bonifica, bisognava addomesticare per riuscire a drenare e a rendere più coltivabile un suolo che rischiava di essere sommesso a se stesso, esattamente, paludoso e pesante. E qui c'è una, possiamo dire, una peculiarità paesaggistica che, ripeto, sta al confine tra Didor e Moriago della battaglia. Ecco. In palù. Elena, aspetta un momento che ci ascoltiamo un altro brano, ma poi certo, veniamo con te. Ma grazie, ma certo, vi aspetto, ma certo. Allora, ci ascoltiamo un altro brano cantato da Viva Zanicchi, sempre a Sanremo di una volta, beh, questa qui deve essere del 69, ed è intitolata Zingara. Ed eccoci di nuovo in studio con la nostra amica Elena per un'altra tranche di questo affascinante racconto. Bene. Cara Elena, siamo qui. Perfetto. Per la seconda tranche. Perfetto. Eccoci. Allora, riprendiamo la descrizione paesaggistica turistica, eravamo giunti nella zona dei Palù, per cui a sud, diciamo, di Vidor, e questa piana cede poi il passo, la scarpata, e alle prime radure boschive in zone gravose, per così dire, proprio le grave, e da lì scorgiamo, per meglio entriamo, nel regno del Piave, perché siamo di fronte proprio al corso medio del fiume, del nostro fiume sacro. E per voi sapete che a me piace molto aiutare i nostri ascoltatori citando anche qualche pittore che per certi aspetti ben descrive, ben si affianca nella descrizione di queste zone. E mi viene in mente, per aiutarvi nella visualizzazione, mi vengono in mente la scuola paesaggistica inglese di fine Ottocento, e penso ad esempio a John Constable, ai suoi paesaggi fluviali, e poi faccio un salto all'indietro e penso alla natura di Peter Bruegel il Vecchio, oppure anche a Bosch, a quei quadri brulicanti di vita contadina che, ripeto, sono molto consoni e congeniali a descrivere proprio la peculiarità rurale e anche la comunità vidorese. Ecco, adesso, se mi consentite, Gesuina e Antonio, sì, cari, sì, vorrei fare una passeggiata, un escursus storico bene, di Vidor. Bene, allora noi siamo qui tutto orecchie. Benissimo. Un paesaggio che condensa in sé varietà così ampie, però su una superficie ridotta, perché pensate, vi do un dato, la superficie d'estensione è di appena 13 chilometri quadrati, per cui in realtà un ambiente su scala ridotta, ma molto ricco, favorì fin dall'età preistorica la presenza dell'uomo, una sorta di colonizzazione dell'uomo che in queste radure vidoresi ritrovava tra l'altro molte prede, c'era Cacciagione, c'era la Selvaggina, che sappiamo essere stata la prima forma di sostentamento dell'uomo presente nel nostro pianeta. E infatti la Cacciagione ha condotto a frequenti battute dell'uomo preistorico, che ha lasciato nella zona attorno a Vidor una ricchezza, un patrimonio in rinvenimenti, in resti proprio archeologici, tra cui proprio la strumentazione utilizzata dai cacciatori, per cui abbiamo lame, mulini, punte di freccia, raschiatoi, l'apparato che seguiva i cacciatori, che, usava, appunto, sì, sì, che usavano i cacciatori, certo, e che vi inviterei a vedere, ad ammirare, per non solo gli appassionati dell'archeologia, ma proprio per ricostruire le presenze dell'uomo in queste zone, presso il Museo di Storia Naturale di Crocetta del Montello, dove sono ben conservate. Ma qui arriva anche una nota particolarmente singolare, che presumo possa interessare anche i nostri giovanissimi ascoltatori. Il reperto paleontologico della zona di Vidor, più importante anche a livello internazionale, sono i resti di un mammut che sono stati rinvenuti nel 1974 nella cava di Cobello a Colbertaldo, per cui siamo nella frazione sud di Vidor, sì, e abbiamo i resti di quello che è l'animale iconico estinto per eccellenza, il mammut. Certo. Questo sì, nella mente di tutti i bimbi, ma anche di noi stessi, da sempre, quando pensiamo all'evo preistorico storico ci compaiono dinanzi agli occhi o i dinosauri o questi mastodonti, questi proboscidati che avevano lo stesso mammut di Vidor a cui è stato dato il nome di Gaetano, ha caratteristiche veramente straordinarie. Si parla di un'altezza di 5 metri. Mamma mia! Sì. Io scorgendo un po' i documenti, il materiale documentaristico, sì, ne sono rimasta stupefatta. Immagino. Sì. E i resti, che tra l'altro si uniscono, è una zona veramente un tesoro, uno scrigno sul fronte dei rinvenimenti archeologici, perché ai resti di Gaetano si uniscono anche dei rinvenimenti di antichi cervidi, i megaceri, per usare il termine tecnico specifico, delle grosse alci, ritrovate anche questi resti a Vidor e anche questi visibili al museo da metà degli anni 80, dal 1986, ammirabili al Museo di Storia Naturale di Crocetta del Montello. Quindi una zona che rende ben densa e visibile la presenza dell'uomo fin dalle epoche più remote. Ma c'è di più, c'è una Vidor romana, e c'è una Vidor romana perché qui passava la strada famosa per eccellenza, la Claudia Augusta Altinate, che noi sappiamo essere quella via di rilievo infinito, perché metteva in comunicazione il mondo romano e la Venezia con il mondo germanico. Per meglio dire, si partiva da Roma, poi chiaramente dai nostri territori, e si giungeva sulle Alpi attraverso il Brennero e il Passo Resia, e si arrivava in Germania esattamente a quella che oggi è un po' la Baviera. Ho capito. E Vidor era proprio attraversata dalla Claudia Augusta. Per cui anche la presenza romana, supportata e avvalorata da una necropoli, da corredi funebri che sono stati ritrovati in zona, e vi dirò di più, Gesuina e Antonio carissimi, anche da una notazione nell'ambito rurale, perché si sono ritrovati antichi tracciati di quella che era un po' la centuriazione romana, cioè il modo di suddividere i fondi con un reticolo ortogonale in decumeni e in cardini massimi, che era tipico della suddivisione fondiaria dei nostri avi romani. Per cui altro patrimonio di questa zona sul piano archeologico, la ricchezza della testimonianza dell'antico romano. Per cui direi che un altro elemento importante, di peculiare interesse, straordinario, e magari poco conosciuto al grande pubblico. Esatto. Esattamente, da approfondire, perché proprio Vidor ha circoscritto un perimetro di ricerca che presso gli archeologici, i ritrovamenti archeologici e gli studi archeologici vanta fama internazionale. Vale la pena di risottolinearlo. È interessantissime queste cose qua. Sì, direi di sì, ed è stata, per la sottoscritta, è stata una scoperta suggestiva e fonte di stimolo per saperne di più. Immagino. Così mi auguro anche per gli ascoltatori. Certo, e speriamo di sì. Comunque per noi è veramente una scoperta interessantissima. Ma immagino. Scusa Elena, ci fermiamo un attimo per un'altra canzone. Ma certo. Allora, la terza canzone in programma è una canzone che ha vinto il Festival di Sanremo del 68, 1968, e ve la presentiamo cantata non da Sergio Endrigo, ma da quello che appunto dal cantante che l'ha cantata insieme a lui, che è Roberto Carlos, un cantante brasiliano. La festa appena cominciata è già finita. Il cielo non è più con noi. Il nostro amore era l'invidia di chi è solo. La mia ricchezza, la tua allegria. Perché giurare che sarà l'ultima volta? Il cuore non ti crederà. Qualcuno ti darà la mano e con un bacio un'altra storia nascerà. E tu gli dirai che sei felice come non sei stata mai. A un'altra io dirò le cose che dicevo a te. Ma oggi devo dire che ti voglio bene, per questo canto e canto te. La solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. E tu gli dirai che sei felice come non sei stata mai. A un'altra io dirò le cose che dicevo a te. Ma oggi devo dire che ti voglio bene, questo canto e canto te. La solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. Ma oggi devo dire che ti voglio bene, per questo canto e canto. Ecco, ci siamo ascoltati la canzone Canzone per te, cantata da Roberto Carlos, e adesso siamo ancora con la nostra Elena. Grazie Gesù. Ecco qua. E ritorniamo un attimo al nostro breve excursus storico, perché sì, vale la pena anche di ribadire come facciamo un salto dal periodo romano al periodo medievale, perché è proprio nel periodo medievale che assistiamo un po' alla realizzazione di quelli che sono gli elementi, o per così dire il patrimonio artistico e architettonico di Vidor, ossia il castello, l'abbazia di Santa Bona di Vidor e poi quello che è il porto fluviale, che ne ha qualificato la funzione, il ruolo strategico nel corso degli anni. Allora, per quanto riguarda il castello retto dai signori di Vidor, che provenivano da una nobile famiglia feltrina, purtroppo a noi non giunge, perché le devastazioni del periodo, per così dire, tra il 500 e il 600 ne hanno fatto man bassa. Rimane solo l'apice del colle su cui la sommità, su cui sorgeva, ma oggi ben riscattata, perché sede del Palio di Vidor, che va proprio a commemorare le antiche vestigia del castello. Il castello venne edificato prima dell'anno 1000, e proprio perché si volle porre a controllo del porto fluviale un comando, una guarnigione che vigilasse, porto che aveva continui utilizzi, vuoi sia da un punto di vista di trasporto di merci, ma anche proprio di passaggi di persone, per cui il castello era fondamentale proprio per non solo dirimere eventuali traffici, controversie, ma proprio come tutela, come vigilanza. Ahimè, il castello nel periodo tra, come dicevo, inizi del Cinquecento, quando purtroppo le dispute, le controversie tra i vari principati e signorie per i castelli della pedemontana collinare veneta si fanno più accese, ne fa le spese, perché purtroppo crolla, è proprio nel mirino, e crolla nel bel mezzo dei combattimenti che vedono fronteggiarsi Venezia e la Lega Germanica di Chambrai, firmata però in Francia, capeggiata da Massimiliano I d'Asburgo. E questo comportò la decadenza e la vera e propria scomparsa del castello. Però laddove le vestigia architettoniche non sono più visibili, è ben viva la memoria legata anche ad una bellissima leggenda, sì? Che vi vorrei regalare. Oh, bello, bello, la leggenda, sì, sono sempre, sì, belle. Perché è una leggenda, Gesuino Antonio, che ha quasi contorni shakespeariani, riecheggia un po', non vi dico altro perché lo scoprirete. Benissimo. Ed è leggenda di Rosa e Rizzardo, laddove Rizzardo era un capitano a servizio del castello dei signori ed era andato sposo dell'ultimo genita Rosa del casato nobiliare dei Vidor. Mentre una sera lui era uscito, Rizzardo era uscito per un attimo, aveva lasciato il castello, era uscito a concedersi una passeggiata lungo, si dice, il corso del, si narra il corso del Piave, sentì rintocchi allarmanti della campana che annunciavano, ahimè, l'arrivo, e qui ritorniamo a una nostra vecchia conoscenza, di Gerardo di Collalto, ah, sì, e di un altro Rizzardo da Camino, che erano riusciti, grazie a un traditore che aveva aperto, e qui ci sono sempre gli intrighi che ritornano, che aveva aperto loro le porte, era riuscito a forzare, ad espugnare il castello. Rosa, l'amata Rosa, però si era barricata momentaneamente in salvo nella torre del castello. Rizzardo, saputo dell'evento, cerca di, che nel frattempo si era rifugiato nell'abbazia, perché abbazia e castello si guardavano da un punto di vista proprio di logistico, sì, di dislocazione, sì, e saputo di questa in preda proprio all'angoscia, decide attraverso un passaggio segreto di ritornare al castello per liberare la sua amata. Giunge al castello, c'è un parapiglia con Gerardo, perde d'occhio Rosa, pensa che ella abbia preso il passaggio segreto e si è messa in salvo nell'abbazia. Niente di più sbagliato, purtroppo Rosa è caduta vittima di Gerardo, che l'ha fatta propria, e pago di questo ratto desiste dal continuare. Purtroppo Rizzardo, convinto Rosa sia in salvo, lo attende all'abbazia, lascia il castello seguendo la voce del cuore, ritorna all'abbazia, si sporge e vede che la sua bella dalla torre si getta, e lui stesso si getterà, non resistendo a questo dolore, a sì, questa sofferenza, si getterà nei flutti del fiume Piave. E si narra da allora che guardando certe increspature dell'acqua del Piave sotto il ponte di Bibidor, laddove le increspature si incontrano, siano gli abbracci di Rosa e Rizzardo che l'acqua ha fatto ricongiungere, riprovare, laddove le spade invece ebbero in diviso la supremazia. Certo. E questa mi sembra bella, quasi di sapore shakespeariano, sembrano quasi Romeo e Giulietta, per naturalmente, certi viene aspetti. Naturale, sì. Infatti, mi è piaciuta così condividerla, perché mi sembra molto romantica, sono sempre suggestive le leggende, molto suggestive, sì, anche con i richiami e i contatti e il dialogo naturalistico, poi la presenza che rimane nella natura e nel paesaggio, Gesuina e Antonio. Comunque, insomma, si vedono, sembra di vedere questi abbracci, bello. Sì, sì, quindi, molto bello. Quindi molto per gli innamorati bello. Sarà, sì, magari... Quando si affacciano a guardare il fiume, avranno l'impressione di vedere questi abbracci questi due amanti. Sì, perché gli sguardi si sono incrociati e purtroppo il dolore non ha permesso il concretizzarsi del riabbraccio, però nella natura sì, nella natura sì. Ecco, bene. Noi adesso ci ascoltiamo un'altra canzone e poi saremo ancora con te. Grazie. Allora, il cuore cos'è? Uno zingaro? Ma così ci racconta Nada, che ha vinto con Nicola Di Bari il Festival di Sanremo del 1970. Il cuore è uno zingaro. Soffrivo, gli dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per me si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando. Sera rideva, rideva, mi strinse e lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva, mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di rispondergli sì, ma senza mai guardarlo negli occhi. Lasciai cantando così, che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro. Finché troverà il padre. chissà, e si fermerà. Che colpa ne ho. Ed eccoci di nuovo in studio con la nostra amica Elena, la quale vorrei far notare sulla sua citazione della Via Claudia Augusta, come le antiche strade consolari possono avere come parallelo i moderni passanti del futuro. Io vedo una certa, come dire, analogia tra queste due cose, un po' un'Europa riconosciuta, come diceva Salieri, un'Europa ritrovata. Non so se sei d'accordo. Sono perfettamente d'accordo, Antonio, ed è proprio, secondo me, il pontifex, cioè il congiungimento, il passaggio, ed è vero, tra il mondo classico e il mondo moderno, le due anime dell'uomo, se vogliamo, per cui sono perfettamente d'accordo. È una metafora, ma è anche un qualcosa, un aggancio reale, una corrispondenza reale. Sono perfettamente d'accordo. Grazie. Io continuerei citando l'altro luogo, edificio simbolo, e fortunatamente ancora presente, è stato ricostruito, che è l'abbazia di Santa Bona, accennata poc'anzi. Allora, diciamo che la fondazione e la costruzione dell'abbazia di Santa Bona di Vidor, che oggi meta anche di continue visite artistiche e culturali, è strettamente collegata alla signoria feudale presente nella zona e anche a dei cavalieri che ritornavano, avevano affrontato le crociate e ritornavano ricchi di beni che misero a disposizione sotto forma di donazione proprio per aiutare i monaci benedettini all'edificazione di questo complesso abbaziale che risale intorno all'anno 1100, per cui siamo tra agli inizi del basso medioevo. Sì, sì. L'abbazia di Santa Bona, che gode nei primi anni di una conduzione da parte di abati dotati di profonda religiosità, poi ci sarà un periodo, una stagione più chiaroscurale, tant'è che interverrà anche, per così dire, una visita ispettiva, però rimane un luogo di riferimento religioso molto importante per i pellegrini e soprattutto è strettamente legato alla figura della santa egiziana, e che ci dà modo anche in questo caso di richiamare una leggenda. Oh, la leggenda di Santa Bona, fanciulla egiziana. Questa leggenda racconta un po' come questa fanciulla, figlia di un nobile satrapa egiziano, Zabul, in realtà è rimasta orfana, persi i genitori, non voleva assolutamente saperne matrimoni combinati che si usavano e caratterizzavano da sempre la ragion, compiacevano la ragion di Stato e anche di re. E una volta erano di moda? Una volta sì. Era così. Decise di rimettere tutta la propria sofferenza, la propria frustrazione nella fede e di farsi cristiana. Scappò, riuscì a trovare riparo in un convento ed abbracciò la fede cristiana. Abbracciando la fede cristiana, però, destò una sorta di protesta, fu più volte quasi rincorsa, inseguita fino alla porta del convento. All'interno del convento venne difesa strenuamente da tutte le consorelle, specie da una consorella a cui lei si legò con un'amicizia proprio di profonda lealtà, stima e riconoscenza. purtroppo la consorella cadde vittima, per così dire, di dignitari di corte e morì. Ma Bona, a quel punto, sentendosi persa, disse: «Iddio, voglio seguire la mia consorella». Iddio la esaudì e 3 giorni più tardi anche Bona spirò. E si dice che nel momento del trapasso una luce abbia avvolto santa e un profumo soavissimo, quasi di tipico soave ma anche acre, tipico della ginestra del deserto, avvolgesse la fanciulla. Ancora oggi, quando si commemora Santa Bona, laddove all'interno dell'altare vicino al tabernacolo c'è un altare che conserva le reliquie della fanciulla della santa, si dice che si sente, si possa sentire l'emanazione di questa essenza, di questo profumo. Per cui mi sembra anche questa una suggestione che lega un po' il passato, il presente, l'aspetto mistico, la fantasia popolare. Sì, sì. E fa da collante, da unione tra tutti questi elementi. Ah, molto interessante anche questa. Sì, sì, sì. L'abbazia, mi preme anche completare dicendo che l'abbazia purtroppo subì degli attacchi, dei crolli, delle distruzioni, non solo nell'epoca quella delle grandi battaglie dei vari, come accennavo prima, dei vari, sia la Repubblica Serenissima, sia gli austriaci, sia l'epoca napoleonica, ma anche durante la grande guerra, il primo conflitto mondiale. Però in questo caso ci furono delle famiglie nobili che riuscirono a mettere insieme delle risorse finanziarie, a ricostruirla, in particolar modo la famiglia d'Assacco, che è l'odierna proprietaria del sito, del luogo, che è meraviglioso, vi inviterei davvero a visitarlo, e vanta un chiostro simile a quello dell'abbazia cistercense di Follina, a pianta quadrata, con delle meravigliose colonne, con degli elementi decorativi veramente ricchi, variegati, di pregevole fattura. Ci sono anche degli affreschi e veramente caldeggio una visita in questo luogo, perché non solo sentirete la densità della presenza mistica, ma anche sul piano artistico vi ripagherà. Quindi qualcuno alla domenica, che magari va a fare una gita, che si ricordi che c'è anche Bidor. Certo, l'abbazia di Santa Bona. Certo. Elena, tu hai fatto un'esposizione, non dico bella, dico solo stupenda. Ecco. Vi ringrazio. E noi ti ringraziamo tanto, Antonio ed io, siamo contentissimi di averti avuto con noi. E che veramente, è vero Antonio? No, sempre gratificante. Ecco, hai proprio esposto delle cose molto molto molto interessanti. Noi stato un piacere. Noi ti ringraziamo e ti salutiamo con tanto tanto affetto. Grazie, alla prossima. Sì, un abbraccio. Senz'altro, un abbraccio anche a voi. Grazie, arrivederci, buona serata. Grazie Elena. Ecco Antonio, siamo arrivati quasi alla fine. Ci ascoltiamo l'ultima canzone. L'ultima canzone, che da bella canzone, a me piace, chissà perché. Mi piace in maniera particolare, non lo so, mi suscita delle emozioni così, un po' particolari, ed è intitolata I giorni dell'arcobaleno, che è cantata da Nicola Di Bari, che ha vinto nel 1972 a Sanremo. Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno tornava il sereno, e tu con gli occhi la luna e le stelle sentivi una mano sfiorare la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti già donna. Tu adesso ti vedi grande di più, sei diventata più forte e sicura, è iniziata l'avventura. Ormai sono bambine e amiche di prima che si ritrovano in gruppo a giocare e sognano ancora su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante perché a 16 anni hai già avuto un amante, ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa incontro all'amore ti lascia alle spalle il tempo migliore. Eccoci di nuovo in studio, Antonio. Sì, io volevo leggere un breve brano dalla prefazione di Bruno Lorenzon, dell'ultimo libro della trilogia di Bruno Lorenzon, questo è di Silvano Piazza come prefazione, da Che a Piazza, Che a Tasa, Che a Staga a Casa. Ah, beh, è l'ultimo libro, diciamo, di questa ideale trilogia. Povere donne, un povere piccolo donne. Brano, perché poi la prossima volta contiamo conto di riuscire a leggere eventualmente E Femmines come donne, dato che siamo in pieno, diciamo. Ah già, perché sì. Appunto. Quindi La fortuna letteraria di Bruno Lorenzon è nata quasi per caso nella primavera del 98, quando decisi di raccogliere in un libro una serie di articoli brillanti pubblicati mensilmente nel periodico La Piazza, oggi è il Tabaro, che usciva in un territorio di più comuni compresi fra Treviso e Piave. Lorenzon non era un linguista, non faceva considerazioni filosofiche, eccetera, né si dilungava in annotazioni sentimentalistiche, e pur mantenendo sempre un rigore filologico, storico e linguistico, risultava però brillante e divertente, questa è la sua cifra. Da qui mi venne l'ardire di farne un libro a metà strada tra l'amicizia e una nuova scommessa editoriale. Nacque così Drio Arestera, Il Savere dei Noni. Il successo fu immediato, tanto da costringere a due ristampe in pochi mesi. Senza accorgerci, quasi per magia, era nato, forse più correttamente era fiorito, un modo nuovo di scrivere sulla cultura veneta legata al ricordo. La continua riscoperta e salvaguardia della cultura e delle tradizioni del Veneto passava attraverso una scrittura ironica e divertente, quasi si volesse esorcizzare con il sorriso decenni e secoli di povertà ed ignoranza. Nel 2002 l'autore di Roncade bissa il successo editoriale con A piede scalzi e Il Savere dei Noni. Infine, con questo Che a Piazza, Che a Tasa, Che a Staga a Casa, si chiude una ideale trilogia che ha caratterizzato e determinato questo genere letterario nelle librerie. Ecco, questo è un altro aspetto, diciamo, delle storie dei Noaltri, delle tradizioni. Abbiamo sì. Ascoltato appunto leggende, e qui anche con Bruno si potrebbe parlare dell'Inverno di Toni, che è una serie sì. di racconti da Fiò. Diciamo, tutte storie sulla scorta del novellino, così Tanfuccio Neri e compagnia, tutte le veglie di Neri, eccetera, eccetera. Ho avuto la fortuna di conoscerlo proprio in ultimo. È stata una voce straordinaria del nostro popolo, e devo dire che. E sono tutte sfaccettature, anche con tutti i racconti di Elena, eccetera, sono tutte delle cose che danno come posso dire, un piccolo acconto di quella ricchezza che era la nostra tradizione. Tradizione, diciamo, la storia di un popolo molto povero ma anche molto vitale, se sì. vogliamo. E questa ritengo che sia la nostra forza, che sia stata, sia e sarà. E sia anche il futuro, perché esattamente sarà sì. la nostra forza per affrontare le ulteriori sfide che ci saranno date in sorte per il prossimo futuro, e che contiamo di vincere ancora una volta. Ah, speriamo. Esatto. Bene, allora grazie Antonio. E grazie a te e grazie ai nostri ascoltatori. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Per la pazienza con la quale ci accolgono. Ma abbiamo ascoltatori e ascoltatrici anche da lungi. Ecco, questa è una cosa molto molto gratificante. Bene, come sempre vi saluto affettuosamente e vi dico ciao ciao. Avete ascoltato? Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.